Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Arrivederci e grazie. Come, vai via così? Ma come vado via così? L'obolo te l'ho dato, no? Sì, ma il supplemento. Un momento, don Garò. Il signore napoletano, amico mio. Oui. Oui. Pacifico. Tato. Come sta? Non c'è male. E da quanto tempo stai qua? Io sono 20 anni che sto qua. Già, è vero, tu moristi 20 anni fa, ma mi ricordo. Io venni pure al tuo funerale. Le risate quel giorno. E tu quando sei arrivato? Adesso. E come ti trovi qua? La verità, ero stanco della vita e mi sono suicidato. E quando ti sei ammazzato? Oggi, sono morto di giornata, morto fresco, senti. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma perché qui non c'è stato... Oggi, anche venerdì 13, non avevo valutato questa circostanza. Però ci tenevo molto a fare questa trasmissione. Premetto, questa trasmissione funzionerà se voi comincerete subito a telefonare all'800 24 0024, altrimenti posso mandare della bella musica. È totalmente inutile che io stia qui a questo microfono. Perché? Perché vorrei entrare nel vivo di un fatto eclatante di cui si sta parlando molto in questi giorni, che ha dato a molti grande sollievo, grande senso di speranza. Lo scambio epistolare tra Papa Francesco ed Eugenio Scalfari, il vicario di Gesù Cristo in terra per i credenti e il padre fondatore del Tempio del Laicismo, con molti distinguo, però facciamo finta che sia così, Eugenio Scalfari, si sono scambiate delle lettere, e la summa di questo scambio epistolare, grande apertura da parte del Papa, è quella che Scalfari a un certo punto dice: va bene, il Papa mi fa onore di voler fare un tratto di percorso assieme, ne sarei felice. E benissimo, quindi laici e credenti possono trovare un punto d'incontro riguardo al ben operare, riguardo ai valori, riguardo alla reciproca tolleranza. Il Papa ha fatto delle aperture verso gli atei. Scalfari ha chiesto, sì, però tante volte, solo così, per sapere, per essere sicuri, ma Gesù Cristo perdonerebbe anche i non credenti una volta morti? Quindi già mette le mani avanti, insomma, si troverà un punto d'incontro. La sto radicalizzando, massimalizzando, anche con un sottile velo di dissacrazione di cui mi pentirò probabilmente quando, dopo morto, e chi lo sa, chi me dà la certezza, chi me dà l'assoluta certezza che questo potrebbe accadere. Sì, perché il punto è proprio questo. Sono d'accordo che in realtà una visione moderna e contemporanea anche della fede religiosa è quella di massima tolleranza verso chi non ce l'ha, chi non crede. Ci si può trovare dei punti d'accordo su il ben operare quotidiano. Il credente, che ha una visione naturalmente basata su valori che vengono dalla trascendenza, che vengono da un'entità che si chiama Dio, che dà appunto una legge che bisogna osservare in terra per essere premiati nel post mortem, il laico lo fa semplicemente perché la sua coscienza, che gli impone un retto vivere, un atto, una vita fatta di giustizia, di non sopraffare le persone che sono inermi, sono deboli, di non fare atti contrari alla propria coscienza. Poi la coscienza, qualcosa può essere manipolato, posso venire un'infinità di fattispecie in cui la mia coscienza mi dice che è giusto magari massacrare un'intera etnia perché questo è per il bene della sopravvivenza del mondo. Ma detto questo, comunque, vediamola in positivo, è una bella apertura. Il religioso comincerà ad abbassare il livello dei suoi valori non negoziabili, lasciamo un po' più di respiro al laico, troveranno dei punti d'incontro. Mi sembra una bella strada. Cammineranno assieme mano nella mano, però fino a quando? Fino a quando saranno vivi? Potranno essere d'accordo sulle azioni che si fanno durante il passaggio terreno? E dopo? E dopo cosa succede? E dopo, naturalmente, la persona di fede pensa che per lui la coscienza continui, sia prolungata, ma dove? In un luogo paradisiaco in cui si vive illuminati della grazia, della contemplazione dell'assoluto. Questo lo dicono i mistici, questo lo dicono le persone di estrema, provata e corroborata fede. Ma voi comuni credenti, cosa pensate che accada dopo? Cosa vorreste che accada dopo? Vorreste rivedervi con le persone care, belle, giovani e stare sempre assieme a loro? Vorreste essere felici? Pensate si possa essere sempre felici, ma riusciamo a concepire in vita l'essere felici dopo? Pensate che ci sia un momento in cui dovrete espiare quello che avete fatto di ingiusto durante la vostra vita, se avete una coscienza basata su una dottrina, su dettami religiosi? Quindi cosa immaginate? Un purgatorio? Come ve lo immaginate? Come Dante? O immaginate che potreste andare all'inferno? Non avete coscienza, siete credenti, ma avete vissuto in maniera sibaritica, e quindi immaginate i diavoli con la pece bollente, con le torture, con il malessere che durerà per eterno. potete anche immaginare questo. O non vi ponete proprio il problema, vivete la giornata, salvo quando cominciate a star male, essere anziani, avere qualche piccolo segnale, cominciate ad attaccarvi al primo prete che trovate e improvvisamente trovate in questo conforto, è anche un conforto, è come se fosse un farmaco misericordioso la fede. E voi che invece vi considerate laici, indefessi uomini che hanno fede soltanto nella razionalità e nella propria coscienza, cosa immaginate? Ci spegneremo come lampadine fulminate? Ci sarà il buio e poi non ci sarà nulla? Ci sarà un sopravvivere della nostra coscienza in quel buio? Il nostro ricordo avrà una vita più lenta rispetto a quella che è il deteriorarsi del nostro corpo? Beh, sono tutte domande che questa mattina ognuno di voi può rispondere semplicemente. Fate un attimo mente locale, che succede quando muoio? E poi mi rispondete 800 24 00 24. Io credo che dopo la morte non ci sia null'altro che l'eternità, il nulla e il disfacimento. Il nostro universo è considerato un universo, secondo me ci sono più di uno, sono multiversi, e credo che la nostra energia, che poi i cattolici lo chiamano anima. Facevo, diciamo, muratore, avevamo finito il cantiere, dovevamo fare delle pulizie, c'era sto fusto di 50 litri e che non c'era l'etichetta, allora io l'ho stappato, sono andato su col naso per annusare cos'era, mi ha sbalzato via. Da quel momento, diciamo, io mi sono ritrovato in rianimazione in ospedale. Allora io da quel momento che ho sniffato, dal momento che mi sono risvegliato sono passate 2 ore e mezza. Io quelle 2 ore ho un ricordo di una nebbia buia, proprio tipo universo, tutta nebulosa, in un cerchio a spirale che in fondo c'era. Ecco, questa è qualche testimonianza di nostri ascoltatori quando ponemmo il problema riguardo all'esperienza del post morte. Molti avevano avuto l'impressione di avere questa esperienza, raccontavano un momento di sospensione della percezione del mondo concreto, che è qualcosa che assomiglia appunto agli universi che gli uomini sono sempre prefigurati. Da quando l'uomo ha cominciato a pensare in maniera complessa, ha cominciato a pensare che esistesse qualcos'altro, o avere prova concreta che esistesse qualcos'altro, o avere un contatto reale con qualcosa di trascendente rispetto alla realtà materiale. Questo secondo i punti di vista, non voglio entrare in nessun punto di vista, ma l'uomo si è fatto questa idea. Noi tutti, noi occidentali, cattolici, apostolici, romani, comunque siamo stati educati con un'idea, abbiamo avuto un imprint in chi più chi meno, che esista un al di là, esista un luogo in cui viene premiato il retto comportarsi secondo la regola e viene punito tutto ciò che è contrario a questa rettitudine di comportamento. Poi molti hanno abbandonato quest'idea, molti ci hanno riso sopra, molti hanno pensato fosse una superstizione, fosse una sovrastruttura, altri hanno mantenuto un culto esteriore, un'osservanza delle regole esteriori, senza porsi poi realmente il problema della trascendenza, ciò che accada dopo. La mia impressione è che oggi ci si sia molto appiattiti su ciò che accade, occorra fare durante la vita terrena, e si è perso un po' di vista di quello che possa accadere dopo. Beh, è tanto difficile rispondere a questa domanda, sì, perché se il cammino assieme vuoi dietro Eugenio Scalfari, vuoi dietro Papa Francesco, siete disposti a farlo, su questo dovrete ben chiarirvi le idee. Verrà un momento in cui questo cammino si interromperà, e quando si interromperà, secondo voi, a voi cosa accadrà? 800 24 00 24. Di là si sta talmente bene che però il prezzo da pagare per questa, diciamo, eterna felicità è quello di non poter avvertire nessuno di coloro che stanno al di qua che in effetti c'è qualcosa. Io ne sono talmente convinto che, per esempio, io già con i miei figli, diciamo con la mia famiglia, ho già detto: se quando vado di là mi dicono o l'eterna felicità e non avverti nessuno, oppure diciamo vai all'inferno però hai la possibilità di avvertire qualcuno, io a quel punto avrei già fatto la mia scelta. Magari perché di là si sta veramente tanto bene. Questo ascoltatore sintetizza quello che è stato il grande rovello agli albori del secolo della razionalità, del trionfo della tecnologia, che a un certo punto la tecnologia si è sostituita all'antica credenza religiosa, e gli uomini sul finire dell'Ottocento hanno cominciato ad applicare la tecnologia alla scoperta dell'aldilà. Nasce con Madame Blavatsky, con le sorelle Fox, con tutta la teosofia, una sorta di ricerca tecnologica di trovare il pertugio aperto fra la certezza dell'aldilà e la glorificazione riqualificazione della razionalità del secolo in cui si stava vivendo. Quindi iniziano le strumentazioni per fotografare gli ectoplasmi, le sedute spiritiche, il colloquio con l'aldilà, le prove tangibili scientifiche attraverso la fotografia, l'elettronica, le scienze esatte, che potesse esistere un aldilà. Ma anche loro non sono riusciti a creare nulla, se non altro che un universo illusorio, un universo fatto appunto di trucchi, di finzioni, di qualcosa di mai provato. Quindi l'uomo non è mai riuscito a provare l'esistenza di un aldilà, di un perdurare della vita, se non attraverso un atto di fede, attraverso un'uscita alla propria condizione umana. Manfredo, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Primo ascoltatore, 800240024. Scusate, è la domanda più semplice. Ogni essere umano se la sarà posta, quindi ognuno avrà dentro di sé un barlume di risposta. Questa mattina non è che occorre essere professori per rispondere alla domanda. Manfredo. Ciao, ma per me non ci sarà assolutamente niente, nulla, il vuoto, come prima che nascessi. Cioè io non ho nessuna coscienza di me prima di nato, e quindi alla fine che cavolo me ne frega di essere, se fossi anche solamente, come pensano i buddisti, reincarnato, ma se non mi ricordo nulla e devo ripetere i soliti errori e gli sbagli, cioè francamente... Quindi Manfredo, scusami, sì, il tuo comportarti, sì, in maniera giusta, secondo coscienza, sì, è solamente determinata allo stare bene con la tua coscienza finché sei vivo. Non ti importa niente di acquisire valori per un'altra vita o di acquisire pene per quello che fai di sbagliato in una vita futura. No, assolutamente no, proprio non credo in una vita futura, come si può dire, dello spirito e dintorni, e non credo né in pene né in doni. Anche perché, detto tra noi, sarebbe abbastanza squallidino un Dio che ci dona la vita e poi ci fa tanti piccoli trabocchetti per poi farci avere una vita eterna. Queste sono già tue opinioni. Io voglio sapere, per te si spegne la lampadina, si fulmina la lampadina, fine, non c'è più niente, buio. È un po' come succederà con Radio 24 quando arriverà Minoli. Vabbè, ecco, il nulla totale. Noi stiamo parlando di assoluto, non stiamo parlando di materie transeunti. Dai Manfredo, tagliamo qua. Maurizio. Pronto? Sì. Pronto? Che succede? Sì, Maurizio, sì. Ecco, sì, buongiorno. Io nel 2001 ho avuto praticamente una broncopolmonite bilaterale con il riversamento pleurico molto molto grave. Quindi stai per morire. Stavo per morire, sì, il cortisone mi ha salvato, però a un certo punto il mio fisico non riusciva più a smaltirlo e sono andato in coma praticamente. Sì, ma tu ci stai pensando, cioè sto per schiattare, che succederà dopo in quel momento? No, mio, non mi rendevo conto che era grave perché avevo febbre alta, non avevo tosse, solo febbre, molta sudorazione, molta, e a un certo punto niente, io boom, e avevo aperto gli occhi e ho visto praticamente mia moglie che era davanti al letto, il dottore appoggiato al muro, poi c'era un altro signore là, e i miei ricordi, no, che ho aperto gli occhi così, davanti a me, non mi vedevo disteso, vedevo davanti a me come un muro bianco e come delle cascate che venivano giù. Quindi hai avuto un barlume di visione che pare che abbiano le persone che lambiscono la sfera della vita terrena, di qualcosa poteva accadere, sai, potrebbe essere una proiezione dei tuoi ricordi, sai, siamo esseri abbastanza complessi, però in quel momento hai avuto la percezione sto per morire. Ma no, io quando ho aperto... Vabbè, io, ok, passata l'esperienza, adesso che pensi, che succede quando muori? Ma non è mai tornato nessuno per dirlo, adesso io ho avuto quell'esperienza lì. E... quindi tu pensi che rivedrai la cascata e il muro bianco, quindi già sei preparato. Io ho detto solamente che se morire è questo, questo è questo in fondo è come fare un tuffo in piscina. Grazie Maurizio. Davide. Buongiorno. Come la pensa Davide? Ma io volevo chiarire, ci sarebbero tantissime tanto nessuno cose può smentirla, giuro, nessuno può smentirla, può dire quello che vuole. Ah, chiaro. Comunque, secondo me mi sembra logico pensare che siccome Dio è amore per i credenti, di là, nell'aldilà, non ci sarà nessun tipo di punizione, ma ciascuno di noi verrà messo di fronte alla realtà del proprio essere. Così sì, ma non teorizzi, Davide, se no facciamo Radio Maria. Lei deve dire esattamente se si è mai posto il problema in vita di cosa accade quando lei esalerà l'ultimo respiro. A lei cosa accade? Cosa accadrà? A me accadrà semplicemente che rimarrà di me per un certo periodo di tempo un corpo astrale che mi permetterà di rivivere tutta la mia vita al contrario, e del cosiddetto purgatorio, in cui uno si rende conto degli sbagli che ha fatto. Poi ci sarà un periodo di tempo in cui vivrò nel mondo dello spirito e poi tornerò a reincarnarmi. Quindi lei ha una sua visione dell'aldilà precisa, molto molto precisa. Lei pensa che il corpo astrale sopravviverà al corpo fisico, poi finalmente la sua coscienza troverà un altro involucro per... Esattamente. Una visione corrente, non è assolutamente detestabile. 800240024. Cosa accade quando si muore? Per questo è il punto di differenza fra il pensiero laico e la fede religiosa. L'unico vero punto in cui non c'è possibilità di conciliazione. Lei ha visto quello che c'è dall'altra parte. Sì, come se io fossi un po' in alto, sopra una sedia. Ho aperto questa porta, una porta bianca con, mi ricordo, una maniglia tonda, argentata, un pomello. L'ho aperto e c'era un corridoio nero, buio. Io ho fatto un passo, forse due, e poi mi sono messa a volare. Verso l'alto, era una specie di spirale, io andavo in questa spirale, ma andavo forte, c'erano i capelli che volavano tutti, poi da lontano si vedeva una luce e io mi avvicinavo sempre di più a questa luce e poi sono arrivata in cima a questa luce, io mi sono aggrappata a questo tavolino perché ero in cima, fuori c'era tutta la luce e io ero qui aggrappata. Mi sembrava uno scaldabagno. Cioè era un cilindro. Sì. Diciamo. E ognuno ha la sua visione dell'aldilà. Questa signora che è la ospite di Magalli a parlare della sua esperienza di post mortem dopo un arresto cardiaco parla del mistico scaldabagno come punto culmine del suo universo post mortem. Guardate che è singolare. Se noi parliamo di momento fatale, di fine della vita e ciò che potrebbe accadere dopo, sconfiniamo in una trattatistica che ha del cialtronesco, del misteriosofico, tutte le trasmissioni possibili e immaginabili in televisione in cui vengono chiamati appunto questi reduci dall'esperienza del tunnel con la luce in fondo, tutte le tonnellate libri sono stati scritti sulle esperienze legate al post mortem. Si entra in uno spazio di superstizione, di immaginazione, già mi stanno arrivando i messaggi, questa è una trasmissione per ignoranti. Ma perché una trasmissione per ignoranti? L'uomo per millenni si è interrogato e si è affidato, e ha affidato gran parte delle sue azioni, tra le più eroiche e le più scellerate, proprio al fatto che si facesse qualcosa che Dio voleva. Allo stesso tempo l'uomo moderno e contemporaneo basa le sue certezze sul fatto che esiste soltanto il mondo sensibile, che la propria coscienza a determinare il retto comportarsi. Beh, perché porsi la domanda che tutti si dovrebbero porre, si sono posti, o se non se la pongono è perché hanno terrore di porsa di cosa accada dopo la morte, sembra qualcosa che appartenga al retaggio della cialtroneria. Emiliano. Sì, salve, io da tempo che mi faccio questa domanda. Emiliano, si capisce che voglio essere serio questa mattina o sembra che voglio cercare anch'io i casi? No, io insomma, la ringrazio per l'argomento perché veramente, insomma, credo che sia uno dei più seri che si... Io penso che questo che alla fine dovranno parlare il Papa e Scalfari, dopo che avranno deciso che possono esistere gli omosessuali, che si può anche trombare al di fuori del matrimonio, che i preti possono fare quello che vogliono, che alla fine può decidere anche la donna, l'autodeterminazione del suo corpo, tutte le conquiste della contemporaneità. Dovranno porsi questa domanda, sì, camminiamo per mano, ma quando il Papa andrà fra gli angeli con le trombe e la luce, e Scalfari dice che noi siamo un esito evoluto delle scimmie e gli angeli non esistono, si dovranno dire ciao, uno rimane da una parte, uno dall'altra. Prego Emiliano. Ma io credo che in realtà rimaniamo tutti qui, nel senso che, come no, anche nel cristianesimo, così in cielo, così in terra, non esiste altra realtà se non questa, diciamo già partecipi della luce divina, non so se mi spiego, non esiste altro luogo se non questa realtà condivisa. Quindi la felicità è quella che noi viviamo giorno per giorno, con i nostri simili. Sì, probabilmente ci può essere anche, no, una visione in cui una reincarnazione, una continuità in cui... No, ma non sia vago, perché non può essere tutto, o c'è la reincarnazione... Perché non può essere tutto? Siamo così tanti, così diverse visioni... Ah, per ognuno essere... quello... quindi c'è, diciamo, una destinazione differenziata, qualcuno morirà e aspetterà la risurrezione della carne, qualcun altro si reincarnerà subito, qualcun altro andrà, che ne so, nel paradiso pieno di bellissime vergini e potrà farsi tutte le vergini che vuole, ognuno avrà il suo paradiso. Beh, io credo che però poi insomma un pochino, no, qui deve essere sceso in terra, nel senso che se si fa un inferno in terra si vive nell'inferno in terra, no? Quindi è tutto legato alla nostra avventura terrena ed esistenziale. Qui ci giochiamo tutte le carte: la beatitudine, la felicità, l'infelicità, la coscienza leggera o la coscienza appesantita. Melog. La realtà condivisa. Io credo purtroppo che non ci sia nulla, nel senso che sono convinto che si spenga la luce e basta. Non. Io voglio sperare che ci possa essere qualche cosa, però la mia amara considerazione è che purtroppo non ci sarà nulla. E credo che sia proprio per questo che io comunque, per cautelarmi, ho preso un accordo con mia moglie nel caso io dovessi prematuramente scomparire, che non so, lei dovesse incontrare qualche medium che fosse in contatto con me, abbiamo una parola d'ordine che sappiamo solo io e lei, quindi se sono veramente io quello dell'aldilà che la contatta. 800240024, siamo partiti dal cammino che faranno assieme Papa Francesco ed Eugenio Scalfari, siamo posti la domanda: cosa accadrà quando questo cammino non sarà più possibile percorrerlo assieme, un Papa e un fondatore del pensiero laico? Perché? Perché c'è un punto su cui dobbiamo assolutamente chiarirci: che accade quando si muore? E finisce tutto, si spegne la luce, buio completo, oppure c'è un al di là, e come ce lo immaginiamo, come ce lo prefiguriamo? Ci fondiamo solamente sui dettami della fede che abbiamo ereditato dai nostri padri, o ci facciamo delle visioni personalizzate, come questo signore che già ha pensato la password che conoscono soltanto lui e la moglie, per ristabilire uno stargate, una porta aperta fra l'aldilà e l'aldiquà? E poi l'immaginazione che forse la scienza potrà un domani spiegarci la metafisica, il bosone massivo e scalare, la particella di Dio. Si immagina che Dio sarà trovato attraverso una sorta di esperimento di fisica. E questo ce lo domandiamo questa mattina, perché è il vero punto. Usciamo dall'idea che soltanto i cialtroni e gli esperti in fatti misteriosofici che mi mettono insieme pseudoscienza e parapsicologia possano parlare di al di là. No, ogni essere che appartiene al genere umano sarà posto la domanda: che accade quando muoio? Gli esseri che hanno una fede pensano, più o meno sinceramente, più o meno intensamente, a seconda della fase della loro vita, che accadrà qualcosa che in qualche maniera darà lui felicità, contentezza eterna o una parte di necessaria espurgazione delle proprie colpe. Gli altri non ci pensano, secondo me, non si pongono il problema, vivono intensamente per quanto possono la vita o superficialmente la vita, e ci penseranno magari quando saranno in età molto avanzata. Rossana. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Ascolti, io volevo innanzitutto difendere la ragionevolezza della fede, perché io penso che quando morirò vedrò Gesù. Questa è fede. E difendo, siccome sono laureata, ho fatto un certo percorso, difendo la ragionevolezza di questa mia certezza, esattamente come afferma il Papa. Liberamente, ognuno ovviamente ha la sua esperienza di vita, io per quello che ho visto e ho incontrato nella mia vita posso affermare con certezza questo. Ma la fede, scusi Rossana, è fatta di una certezza inoppugnabile, nessuno può contraddirla. No, è una certezza che io posso in qualche modo documentare con riferimento a certi incontri e alla eccezionalità che io ho incontrato rispetto a questo. Cioè ad esempio quali incontri? Per esempio con delle persone che hanno una eccezionalità tale rispetto alla quale la somma di tutti i fattori che io posso elencare di un certo incontro non dà ragione fino in fondo di quello che io ho sperimentato. E come me... Rossana, non è molto chiaro, perché io rispetto la fede, però voglio capire le prove concrete della fede, su quelle ho qualche perplessità, perché la fede non chiede prove. La premessa anche rispetto a una cosa che aveva detto lei prima, se non erro, è questa, cioè che il concetto di ragione della modernità... No, guardi, la sta menando troppo per le lunghe. Rossana, mi sta traducendo in concetti quello che è semplicemente una visione assoluta. Se lei me la vuole razionalizzare e spiegare, non me la può provare la fede. Lei dire io ho fede, se no i martiri di fronte al rogo, se potevano provare in qualche maniera quello che loro pensavano, l'avrebbero provato. Cioè noi abbiamo fede, affrontiamo il martirio in nome della nostra fede. Se no equivale a cercare il marchio del diavolo nelle streghe, dimostra che tu hai fatto il patto col demonio. Lei non ha fatto nessun patto, io rispetto la sua fede, ma non provi a spiegarmela in termini concreti. Gianpaolo. Sì, buongiorno. Sì. Niente, io ho un'idea. Io penso che il genere umano è abbastanza, troppo presuntuoso, e questa presunzione... E lei chi è per giudicare il genere umano? Ma no, niente, la mia... lei è più presuntuoso dei presuntuosi che lei no, vorrebbe... Io quando sento gente di fede, io penso che sono troppo presuntuosi. No, scusi, io difendo la persona di fede, non è presuntuosa. Ha un dono, ha un carisma, qualcosa che gli altri non hanno, ha una fede. E la fede non può essere derisa o messa in dubbio o dire dimostrami. La fede è fede, non è una dimostrazione, non è un teorema che dimostra l'esistenza di Dio. Chi crede in Dio, crede in Dio. A proposito di questo, volevo dire che la nostra vita non è certamente diversa dalla vita di un moscerino, di una pianta. Questo è il suo punto di vista. Nasce, crea, finisce con la morte, finisce là. Quindi si muore, finisce, niente, il buio. Questo, basta dire questo. Questo io volevo delle semplici e scarne letture di quello che uno pensa. Non mi interessa avere prove o fare dei piccoli trattati teologici. Samuela Pagani, buongiorno. Buongiorno. Samuela Pagani è una ricercatrice di lingua e letteratura araba all'Università del Salento e curatrice con Maria Chiara Migliore del volume Inferni Temporanei, visioni dell'aldilà dall'estremo oriente all'estremo occidente, Carocci editore. Dottoressa Pagani, piacerebbe capire, visto che ha studiato con la sua collega quelle che sono le visioni dell'aldilà, ci sono i punti in comune con le telefonate che ha ascoltato finora? L'uomo si è mai posto in maniera non vincolata da grandi strutture, da grandi e precedenti inquadrature teologiche, il fatto che quando muore succeda qualcosa? Quali sono i punti in comune, visto che lei ha analizzato tutti gli aldilà possibili? Beh, non tutti possibili, veramente, ma penso che sia una domanda... Il grande scaldabagno della signora che ha avuto il post-mortem non credo che esisteva finora nella letteratura ha analizzato. Appunto, è una cosa che cambia costantemente ogni giorno, nel senso che è una domanda costante che accompagna tutte le culture, anche appunto le... Ecco, ma diciamo, le grandi religioni... Noi nasciamo cattolici, apostolici romani, perché semplicemente viviamo a Roma, viviamo in Italia, quindi siamo abituati a pensare a una tripartizione, poi più volte messa in discussione, inferno, paradiso, purgatorio, i buoni vanno in paradiso e vivono della beatitudine e della luce divina, che se poi prende una persona per strada e dice vuoi essere beato a guardare la luce divina? Dice ma io preferirei mangiare, bere, andare a spasso, stare bene per sempre. Ecco. Vediamo di contrapporre un po' gli altri come la pensavano rispetto a questa visione. Appunto, bisogna vedere dove si vanno a cercare gli altri, nel senso che poi quando uno resta nell'ambito delle tre religioni monoteistiche rivelate, il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam, che noi siamo abituati a considerare così come tipologie teologiche distinte, stagne, si vede che gli intrecci sono molto più complessi di quello che uno non immagini. Ed l'islam, per esempio, ha reinterpretato alcuni temi che si trovavano nel cristianesimo primitivo e ha concepito un aldilà simile a quello cattolico, ma per certi versi più generoso e meno rigidamente distinto appunto fra i tre regni, nel senso che dall'inferno musulmano si può scappare più facilmente che da quello cattolico. La lettura, diciamo, biecamente giornalistica, letta all'indomani di ogni attentato di kamikaze fondamentalista islamico che si uccidono, per qualcuno dice che avranno uno stuolo di vergine a loro disposizione, corrisponde a una realtà scritta teologica nei testi oppure è un'invenzione contemporanea? No, non è affatto, cioè è molto complesso appunto l'islam come tradizione religiosa è molto meno dogmatico del cattolicesimo, per cui in realtà ci si trova un po' di tutto, da una concezione estremamente carnale e concreta dell'aldilà alle concezioni più spiritualizzate. Però a proposito di quello che si diceva prima, posso fare un'osservazione? Certo. Di quello che si diceva prima sul misticismo, no? Tu dicevi il misticismo come visione assoluta della divinità, eccetera. Io volevo osservare che i mistici sono i più concreti poi alla fine nel considerare lo spirito, perché appunto lo esperiscono in modo diretto, e quindi il modo mistico di considerare l'aldilà in realtà è una capacità di vedere l'aldilà nell'aldiquà e l'eternità nel presente. Per questo il mistico è un mix, lo dice la stessa parola, è un mix fra vita terrena e visione talmente trasfigurante dell'assoluto che il mistico vive già proiettato nella vita futura. E allora questo discrimine tra laico e religioso lì diventa appunto molto più sfumato. Volevo leggere un pezzettino di 5 righe che è un aneddoto riferito alla più antica mistica musulmana che si chiamava Rabia e viveva in Iraq nell'VIII secolo. È un aneddoto molto famoso, dice: un giorno un gruppo di giovani vide Rabia correre in gran fretta, con del fuoco in una mano e dell'acqua nell'altra. Le chiesero allora: «Signora, dove stai andando? Cosa intendi fare?» Disse: «Sto andando in cielo per gettare il fuoco nel paradiso e versare l'acqua nell'inferno. Non resterà così né l'uno né l'altro e apparirà colui che si cerca». Quindi la sintesi è che anche le figurazioni terrene che ci facciamo dell'aldilà sono dei limiti. Sì, certo, sono dei limiti, sono soprattutto una cosa che presuppone un aldilà e quindi una sfasatura temporale tra questo presente e il presente divino, diciamo così, appunto la realtà e l'apparenza, eccetera, che si cerca di superare. E a quel punto lì anche laico e religioso diventano irrisorie. Come ecco, ma ci sono delle raffigurazioni, come fossero dei parchi a tema di questi al di là, che magari sono meno conosciute? Straordinario, ci sono dei bassorilievi, per esempio in Cina del V secolo avanti Cristo, in cui vengono rappresentate con una concretezza straordinaria appunto queste pene infernali. Ci sono stampe giapponesi fino al 700 che rappresentano i diavoli dell'inferno che giocano a dama, si strappano i peli dal naso perché si annoiano, non hanno più nessuno da castigare perché i bodhisattva hanno salvato tutti. C'è anche questo, quando fine ci sarà poi la risurrezione della carne, saremo tutti i diavoli che faranno, continueranno a dar forconate fra di loro, è molto difficile. I giapponesi si immaginano appunto che fanno il tè, suonano uno strumento a corde che non mi ricordo come si chiama e addirittura appunto si strappano i peli del naso, non hanno più, e l'inferno è diventato insomma ozioso. Si annoiano un sacco. Fermo un attimo, sono Samuele Pagalli, velocemente Mirko, una battuta. Ritorniamo alle visioni concrete, lei cosa pensa? No, ho sentito reincarnazione, non esiste. Noi siamo qua sulla terra, siamo fatti dalla terra, ritorniamo nella terra, il corpo e l'anima va o nell'inferno o nel paradiso. Ma se noi continuiamo a fare dei peccati tutti i giorni, scordarsi il paradiso. Non esiste il purgatorio è qua sulla terra. Quindi lei ha una visione molto concreta e molto attinente alla classica lettura. Opera bene in vita e avrai una paradisiaca felicità nella vita ultraterrena. Questa è la visione del credente che non si pone altri problemi. Sì. Questa è mia. Abbiamo trovato finalmente qualcuno che ha avuto il coraggio di dirlo, perché sennò ci giravano tutti intorno, dal mistico scaldabagno alla possibilità di avere vibrazioni ultraterrene. Mirko l'ha detto: io mi comporto bene perché ho paura dell'inferno e ho fede nel paradiso. Melog, la realtà condivisa. Fantozzi. Senta, dottor, signor Buddha, io perché sono stato dirottato qui da lei? I vostri missionari dirottano milioni di nostre anime durante la vita terrena e noi pareggiamo i conti dopo il trapasso. Mi scusi, signori, dottor Buddha, in questo caso, dato che io mi sono faticosamente conquistato il paradiso dall'altra amministrazione, io non potrei usufruire del suo... No, a noi il paradiso non esiste. Qui bisogna reincarnarsi in altre vite, fino all'assoluta purificazione. Signor Buddha, io... Fantozzi è talmente sfigato che quando muore va nel paradiso sbagliato, perlomeno va di fronte al Dio sbagliato, sarà davanti a Buddha che lo fa reincarnare e torna nuovamente Fantozzi. Questo proprio per dimostrare che al di là della facezia non esiste un punto intermedio, un punto sereno per discutere queste cose. O se ne parla in maniera ridicoleggiante per esorcizzarne la paura, il timore, il terrore, o se ne parla in maniera cialtronesca, adducendo prove dell'aldilà, o si entra in un percorso serio, concreto, difficilissimo e noiosissimo da trattare per radio, in cui si discute, si discetta degli aspetti teologici. Stamattina abbiamo fatto entrambe le cose, abbiamo toccato le possibili corde, però non sono molto soddisfatto della partecipazione del pubblico. Non ho avuto persone che mi dicessero esattamente: sì, io ci penso, mi pongo il problema e sinceramente penso che possa accadere questo. Sentiamo Manuele, se mi aiuta. Sì, buongiorno. Io faccio parte dei cialtroni, allora, nel senso che io... Ma mica è un delitto. Che però secondo me è a pari dignità, no? È la mia teoria. Nel senso che io ho una visione un po' tipo Star Trek, che vado a spiegare anche due misteri della vita, che è un po', secondo me noi siamo una sorta di extraterrestri, il corpo umano è semplicemente un'incubatrice dove appunto cresce questo corpo, dopo, e qui si va a spiegare anche gli UFO che vengono a visitarci ogni tanto, no? E quindi in realtà come ci comportiamo non è importante, no? Insomma, i bambini all'interno di un'incubatrice, se fanno più volte pipì o meno, non è che gli cambia la vita. Sì, ma quindi alla fine della nostra vita cosa facciamo? Partoriamo un alieno? Cosa succede? Nel senso che quando moriamo diventiamo questo corpo extracorporeo, appunto. E dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo nello spazio, abbiamo le nostre astronavi e facciamo la vera vita, che poi lì si porranno un altro problema, che quando sarà la loro morte, cioè, come sarà. Noi siamo una gigantesca incubatrice aliena. Va bene, sì. Io guardi, non è che rido della sua idea, perché a priori una persona totalmente distaccata da un'idea trascendente alla vita dovrebbe ridere di qualunque raffigurazione dell'aldilà. Potrebbe sembrare altrettanto ridicoli i diavoli, gli angeli, i gironi infernali, le gerarchie angeliche. Poi mi spieghi, lei come ha maturato questo suo concetto? Perché il cristiano lo matura nella frequentazione fanciullesca del catechismo, poi della frequentazione, poi lo rafforza, poi ha i dubbi, poi ritorna sulla retta via e via dicendo. Ma lei dove ha ereditato questa religione nell'incubatrice aliena? Guardando un film, The Contact, dove in una frase l'attrice principale dice, un bambino gli chiede, ma secondo te c'è altra vita nello spazio, no? E lei dice... E certo, perché secondo me se no sarebbe tutto spazio sprecato, no? Allora noi siamo qui e quindi in teoria, essendo un po' egocentrici, andiamo a sfruttare anche lo spazio, siccome non abbiamo ancora la tecnologia. Sì, Manuele, però vorrei solo capire se lei in questo momento mi sta simpaticamente coglionando, lo pensa davvero. Lo sa perché? Perché che un film abbia dato a lei una certezza su quello che è l'enigma più indissolubile e più indicibile della nostra esistenza mi fa un po' riflettere. E beh, la scintilla arriva un po' dappertutto, no? Cioè, c'è chi trova l'illuminazione. Ma vuoi sapere se lei è sincero? Perché guardi, io sono sincero stamattina. Mi aspetto lei, mi dica, sto scherzando, vabbè, adesso ho voluto dire qualcosa. Lei pensa veramente. No, però ho maturato seriamente, nel senso che vado a spiegarmi anche il discorso degli UFO, al quale io, penso sia abbastanza una certezza, no? Questo però quindi, lei, Emanuele, le dà la serenità necessaria per affrontare il quotidiano dicendo tanto, alla fine, qualunque cosa mi accada, guardi che è esattamente il percorso di un buon credente, qualunque cosa mi accada, esatto. Ci sarà una provvidenza che si occuperà di me come un grande e buon pastore, si occuperà della mia anima, quindi agisco secondo rettitudine di pensiero e di azione, ma tanto so che sarò ripagato. Lei tutto questo l'ha trasferito sul piano dell'incubatrice aliena? Assolutamente sì, che penso che abbia pari dignità di tutti, appunto, della religione cristiana piuttosto buddista, perché comunque non c'è una prova, no? E quindi sì. Ma se lei ha basato la sua certezza di sopravvivenza post mortem su questo, io non sarò io qui a contraddirla, anche perché non avrei nessuno strumento per dire che lei dice una cosa sbagliata. Marco. Pronto? Sì. Io credo che tanto ci poniamo questa domanda perché siamo gli unici esseri viventi che abbiamo la consapevolezza di dover morire. Io non, sinceramente, ho molti dubbi sull'aldilà, però mi faccio una domanda: come mai a volte nascono persone che soffrono con degli handicap terribili? E mi chiedo, ma che senso avrebbe tutto questo? Forse l'inferno, il paradiso potrebbe essere sulla terra, chissà, potremmo essere qualunque cosa, potremmo essere un organismo microcellulare di qualche essere superiore, potremmo essere qualsiasi cosa, i dubbi comunque rimarranno sempre. L'importante è che lei si ponga la domanda, non faccia come fa la maggior parte degli esseri umani, vivono la giornata soffocati e ottenebrati dalla propria ansia quotidiana per banalissimi problemi di sopravvivenza fisica, senza mai porsi il problema che senso ha tutto questo. Perché sa, il vero senso dell'esistenza lo diamo proprio perché pensiamo la nostra esistenza è finita, e il vero senso del nostro agire lo diamo proprio perché pensiamo, qualcuno di noi pensa, che ha un senso farlo per guadagnarci qualcosa che durerà oltre la nostra vita. Perlomeno io immagino che se non ci si ponga queste domande, non si vive appieno la propria equazione umana. Poi uno può darsi la risposta che vuole, lei si è data una risposta basata sul dubbio, ma comunque si pone la domanda. Quello che mi meraviglia è che venga io preso in giro da molti ascoltatori, che stamattina leggo sugli SMS, perché sembra che voglia fare una trasmissione alla Giacobbo sul post mortem. No, non è così. Mi chiedo, in un momento in cui storicamente, e se parlo di quest'ultima settimana, siamo tutti pronti a gioire del fatto che esista un punto di contatto fra il padre della Chiesa, cioè il vicario Gesù Cristo, e un noto rappresentante del pensiero laico, poniamoci il fatto che però il punto di discrimine arriverà quando si andranno a ragionare che succede quando noi andiamo dall'altra parte. Un'ultima battuta a Samuela Pagani, che è stata finora in ascolto, ricercatrice di lingua e letteratura araba all'Università del Salento, che ha scritto Inferni temporanei, visione dell'aldilà, dell'estremo oriente all'estremo occidente. Esistono nelle grandi raffigurazioni concrete dell'aldilà delle possibilità di uscita personalizzata, Samuela? Sì, esistono possibilità di uscita, dipende appunto nella creazione cattolica del purgatorio, l'uscita dall'inferno è diventata praticamente impossibile, l'inferno è diventato un ergastolo, ma invece appunto in altre tradizioni anche molto vicine, come quella ebraica e quella islamica, si può uscire dall'inferno per direttissima, per intercessione, in qualche modo addirittura anche per evasione. E comunque questo devo dire che ci conforta. Alla fine di questa chiacchierata abbiamo visto che in realtà dal mondo che consideriamo in questo momento più difficile a comprendere una visione di giustizia sia nella vita terrena che nella vita ultraterrena, ce n'è perlomeno la speranza che dall'inferno si può uscire. Sì. Provo a vedere su questo punto si troveranno anche d'accordo poi Scalfari e il Papa nelle loro future passeggiate assieme. A lunedì.